Il Viale Cuccefanto l'abbiamo aperto nel 2015, quindi da allora siamo sempre stati aperti, tranne una breve parentesi a causa del Covid. Siamo aperti martedì e giovedì dalle 18 alle 21 e eseguiamo test per HIV, epatite C e sifilide. Soprattutto facciamo un colloquio, un counseling, diciamo, con le persone che a quattro occhi, e in questo modo riusciamo anche a correggere alcune idee sbagliate rispetto alla propria percezione del rischio di contagio, o comunque a correggere situazioni che possono indurre a dei rischi, insomma. È un lavoro che abbiamo largamente copiato da altri checkpoint che in Europa sono stati aperti prima di noi, anche in Europa del Sud, Barcellona, Atene, Salonicco, insomma, sono stati aperti prima di noi, una volta tanto non solo Nord Europa. Però sì, il problema è che per tornare a Barcellona, pensi che loro sono aperti da lunedì a venerdì addirittura 12 ore al giorno, fanno i turni, cosa del genere. Noi invece dal 2015 ad oggi siamo ancora nella fase di start-up, siamo aperti due volte a settimana, tre ore al giorno, che francamente è una cosa che non sta in piedi, anche a fronte di risultati ottenuti importanti, certificati anche dall'ufficio statistico della regione, per cui davvero non si capisce come mai, insomma, siamo ancora messi così. Infatti, le va di raccontarci la situazione attualmente con l'USL di Bologna? Sì, se ci fosse qualcosa da raccontare, l'azienda sanitaria è completamente scomparsa da anni. Quattro anni fa ci è stato imposto un rinnovo di convenzione, perché abbiamo una convenzione ovviamente, in maniera unilaterale, senza possibilità alcuna di parlarne, una riunione, una telefonata, niente. Siamo passati da una convenzione quadriennale a questa che abbiamo da quattro anni qua, rinnovata di anno in anno, addirittura quest'anno con un ritardo di sei mesi. Non so come si possa credere che una struttura associativa possa programmare uno sviluppo o qualunque cosa in queste condizioni, di anno in anno, con aggiunta dei ritardi. Per cui, insomma, la situazione è un po' questa. Noi non abbiamo de facto un medico di riferimento. Dal punto di vista proprio tecnico ci dobbiamo anche comprare i test per sifilide, perché semplicemente l'azienda sanitaria ha deciso che ha smesso di comprarle, con tutte le ragioni dietro la nostra segnalazione, i vecchi test, ma semplicemente non ha mai dato una indicazione di una possibile alternativa. Per cui, insomma, è mancanza di risposte, muro di gomma. Tanto per dire che siamo stati spostati da un dipartimento di azienda sanitaria all'altro, io l'ho imparato poche settimane fa, senza dare alcuna comunicazione, senza fornire una motivazione. Adesso siamo sotto salute mentale, non si capisce bene perché. Forse pensano che i gay siano malati di mente, che può dire? Una battuta. Però capisce, cioè, proprio un modus operandi completamente, nella mia interpretazione, almeno dimostra un sostanziale disinteresse per lo sviluppo del progetto. Certo. Cosa riserva il futuro? Il comunicato parlava di chiudere il BLQ checkpoint. Esatto, noi dal 1° di luglio chiudiamo, perché così non si va avanti. Continuiamo a spendere energie e a parte anche, insomma, euro per risolvere i problemi che ci crea questa assenza di un partner istituzionale importante, e che oltretutto, oltre a non rispondere alle mail, alle relazioni, farsi negare al telefono, eccetera, non ci aiuta e ci crea anzi dei problemi, invece di aiutare le persone a non prendersi la casone, che qui dovrebbe essere forse più importante, in effetti. Per cui dal 1° di luglio noi abbiamo deciso che la fase di startup è finita, o c'è davvero un interesse fattivo che non si esaurisce nel "ma vi do gli infermieri tre ore al giorno, due volte alla settimana", che stiamo scherzando, non è quella l'interesse, quella è la base, solo che la base è così dal 2015. Quindi o c'è davvero un interesse fattivo, spingere perché il progetto proceda anche nella logica della Fast Track City, no? Il protocollo che il sindaco Lepore ha firmato, o se no non ha senso alcuno che noi continuiamo a fare una battaglia contro le istituzioni invece che contro l'HIV. Lei, tra l'altro, appunto, ha menzionato la firma del sindaco. C'è stata una risposta della politica a questa situazione? Sì, devo dire che il comune, ma anche la regione, si stanno muovendo, da quello che mi risulta. Siamo assolutamente aperti a qualunque possibilità. Dopodiché la base resta che dal 1° di luglio il checkpoint chiude. Spero di non dover andare veramente alla chiusura, non doverci andare a lungo, se si verificheranno le condizioni per aprire il prima possibile o addirittura per neanche chiudere, noi siamo assolutamente disponibili a qualunque tipo di proposta, di soluzione, di accordo, ci mancherebbe, non siamo così, diciamo, ottusi da pretendere di andare avanti al netto delle decisioni della politica e delle istituzioni. Però non ci accontenteremo di impegni di carattere generale, ma puntiamo ad un accordo che cambi un po' la visione e soprattutto che preveda un'assistenza dal punto di vista politico, intendo obiettivi, sviluppo e strumenti per raggiungere e praticare, insomma.